Componimento 38° dei Canti di Giacomo Leopardi. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Io qui vagando a limitare intorno, invan la pioggia invoco e la tempesta, a ciò che la ritenga al mio soggiorno. Pure il vento muggia nella foresta e muggia tra le nubi il tuono errante, pria che l'aurora in ciel fosse ridesta. O care nubi, o cielo, o terra, o piante, parte la donna mia, pietà, se trova pietà nel mondo un infelice amante. O turbine, or ti sveglia, or fate prova di sommergermi, o nembi, insino a tanto che il sole ad altre terre il dì rinnova. S'apre il ciel, cade il soffio, in ogni canto posan l'erbe e le frondi, e m'abbarbaglia le luci il crudo sol pregna di pianto. Fine del componimento 38°.